A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, no, non una gran domenica, in tutta sincerità, lo ricaverete anche da alcune delle voci che vi farò riascoltare, così come ne sono certo emergerà non appena daremo il via ai vostri interventi in diretta. Una domenica che ha teoricamente riaperto la lotta al vertice, visto che la Roma è arrivata comunque a 6 punti e a 8 è tornato il Milan. Non teoricamente, ma in pratica, ha riaperto la lotta in coda, dove secondo Prandelli, con un pizzico anche di scaramanzia, rischia anche la Fiorentina. Magari no, anzi certamente no, ma rimane il fatto che la Fiorentina è alla quarta sconfitta nelle ultime 5 partite. A questo punto, alla vigilia tra l'altro di Bayern-Fiorentina, si può parlare ufficialmente di crisi della squadra viola. Mentre certamente risucchiate in zona retrocessione sono Parma e Chievo, che fino a ieri potevano ritenersi non salve, ma insomma ragionevolmente al sicuro. Qualche altro numero interessante è che Napoli e Inter, per esempio, non pareggiavano in Serie A dal febbraio del 94, ed era stato anche in quel caso uno 0-0, 0-0 che è il risultato meno ricorrente nella storia recente dell'Inter, che non pareggiava con questo punteggio dalla bellezza di 52 giornate. La crisi del Parma è testimoniata dal fatto che sono 8 le giornate senza vittorie. Il Chievo in compenso ha fatto pochissimi punti nelle ultime 9 partite, con una vittoria, 2 pareggi e la bellezza di 6 sconfitte. Ecco spiegato perché sono state risucchiate nelle classifiche rapportate tra lo scorso campionato e questo. Il saldo attivo principale della Sampdoria, che è a più 13 punti e che è arrivata alla quarta vittoria consecutiva sempre senza Cassano, il saldo negativo è più vistoso, è quello dell'Atalanta, che ha la bellezza di 15 punti in meno rispetto a una stagione fa. Cominciamo a risentire le voci principali dei protagonisti di ieri e comincerei dal campo che ha suscitato, insomma, dove si sono registrate le polemiche più acute, che è certamente Torino. Sentiamo dopo la doppietta decisiva, sentiamo Del Piero. Vale tantissimo, anche se sinceramente per noi ogni partita è uno spartiacque, visto la situazione in cui ci siamo messi e ci troviamo. Devo dire che passo dopo passo, le settimane scorse dicevamo che avevamo migliorato, è successo oggi, anche con caparbietà, con quello che è successo nell'arco della partita l'abbiamo rimessa in piedi, l'abbiamo vinta, quindi sono buoni segnali. Adesso speriamo rientri un po' di gente dall'infermeria, di continuare a dare risultati, perché fa bene al morale, all'entusiasmo, ne abbiamo bisogno. Sì, forse è la mia migliore partita, non lo so, credo di sì, insomma, come nell'arco di 90 minuti. La caparbietà sul primo gol non è solo caparbietà, è la caparbietà di andare a riprendersi quel pallone strappandolo correttamente agli avversari e poi giocarlo in 1-2, tra l'altro fantastico il passaggio di ritorno di Diego, e di andare in porta con un'azione da Jekyll. Poi c'è l'azione di Hyde, no? Nell'occasione del terzo gol, dove se c'è stata caparbietà, io penso che ci sia stata, è proprio di quella che non vorremmo mai vedere sui campi di calcio. E mi ha fatto tornare in mente per esempio la lealtà di Natale venerdì sera nell'anticipo di San Siro, quando pur di evitare il rischio della furbata si è addirittura troppo allargato il pallone per saltare Dida ed evitare l'impatto. Ecco, diciamo che la dinamica del rigore, tra l'altro fuori area, lucrato ieri da Del Piero, ripeto, dopo quella prodezza da campione, beh, insomma, non fa onore al campione. E tra l'altro era già successo un paio di settimane fa contro la Lazio, in condizioni molto diverse ma analoghe dal punto di vista dello spirito. Non l'ha presa bene il Genoa, anzi l'ha presa ovviamente malissimo. Sentiamo Gasperini. Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo tenuto bene il campo, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto un po' la sfortuna di non riuscire a chiudere il primo tempo in vantaggio, anche su una scivolata, e abbiamo concesso veramente quasi mai alla Juventus la possibilità di tirare in porta. E poi abbiamo reagito anche al loro gol, abbiamo pareggiato, credo che meritassimo sicuramente un risultato diverso. poi c'è stato questo episodio nel finale, insomma, che sicuramente ci lascia molto rammarico, fa molto rabbia, perché non so se, no vabbè, non so, è chiaramente fuori area, non mi sembra neanche, sembra quasi un rallentamento, quasi una furbata, no? Beh, insomma, il quasi è già una formula elegantemente dubitativa, quella usata da Gasperini. Molto meno dubitativo è il suo presidente Preziosi, che ne ha parlato a Sky Sport 24 in collegamento telefonico. Leggo adesso da un'agenzia, può darsi che tra poco riusciremo a sentire anche queste dichiarazioni, ammesso poi che ne valga la pena, perché di dichiarazione al veleno dopo la giornata di ieri davvero non si sente la necessità, nemmeno se si parla di Napoli-Inter e di tutto quello che è stato detto dopo, tra l'altro curiosamente a corollario di un verdetto equo, perché comunque credo che la partita, mentre si può discutere sul risultato di Juventus-Genoa, non mi pare si possa molto discutere su quello di Napoli-Inter. I punti di distacco della Roma sono rimasti 7 e non 6, come mi è scappato prima in apnea. A proposito di Napoli, potremmo sentire, giusto per completare un pochino il quadro, che poi si potrebbe completare molto di più, ma per il momento fermiamoci anche a De Laurentiis. C'è stato un primo tempo dove mi sembrava, a meno che non ho visto un'altra partita, che fossimo sempre noi all'attacco, che fossimo sempre noi, tranne un paio di volte, a creare la pericolosità. Nel secondo tempo sembrava che alla fine la nostra squadra dovesse pagare lo scotto e crollare da un momento all'altro, però poiché il calcio si gioca in due, devo dire che noi usciamo da questa prova con orgoglio, a testa alta, completamente soddisfatti. Per noi questo ormai è un anno di messa a punto ulteriore, quindi non è che noi ci prendiamo con tutto il gusto e con tutto il piacere questo quarto posto della classifica, ma non è che noi contiamo su questo quarto posto. Noi abbiamo una grande fortuna, quella di non essere dei provinciali. Non è che se noi non raggiungiamo certe posizioni ci cambia la vita, moriamo o falliamo. Questa è la cosa più importante. Noi stiamo costruendo un Napoli, secondo me, importante. Stiamo facendo crescere una squadra e una società dopo un fallimento e, secondo me, poiché il calcio deve cambiare e cambierà nei prossimi anni, noi saremo pronti anche a dire la nostra in un contesto più interessante di quello in cui si gioca oggi. Comun denominatore, scrive Gigi da Bergamo, tra il maggior saldo attivo e il maggior saldo negativo delle classifiche comparate che vi ho letto prima, sottolinea questo ascoltatore, è certamente Luigi Del Neri. Beh, è la verità, lo scorso anno con Del Neri l'Atalanta aveva la bellezza di 15 punti in più di oggi, la Sampdoria quest'anno con Del Neri ne ha 13 in più della scorsa stagione, quindi se c'è indubbiamente al momento, certo non siamo ancora alla fine di febbraio, ma non c'è dubbio che questi numeri al momento stiano dando nettamente ragione alla qualità del lavoro di questo tecnico. I primi ascoltatori di oggi, da Ferrara, Giuseppe, buongiorno. Ciao Garanzini, buongiorno. Dica. Vi dico della crisi del Bari, perché ha molti infortunati, da Bonucci, Rivas, poi Kutuzov, Almiron e molti altri. Volevo solo dire questo. Certo, e infatti si traduce, no, in una flessione. Poi non è una crisi, direi, quella del Bari. Il Bari ha quota 32 da neopromossa e avendo giocato insieme al Cagliari, a parer mio, il miglior calcio del campionato per certe fasi, non credo si debba preoccupare di nulla. Ieri poi gli mancava anche Barreto per squalifica, ma è indubbio che da un lato il rendimento esterno della squadra è più calligrafico, se vogliamo, che incisivo, dall'altro non c'è dubbio che tutte queste assenze comincino seriamente a pesare. Da Padova ha chiamato Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Io la chiamavo per il Del Piero e la partita Juventus-Genova. Sì. Non sentite le dichiarazioni dell'allenatore del Genova e le sue mi sembrano abbastanza ingenerose. Io ho visto la partita e Del Piero non era in fuorigioco, è stato toccato in maniera anche abbastanza evidente. Che sia caduto fuori aria è un dato certo. Quindi non era in posizione offside, non ha simulato la caduta. Il fatto che poi gli abbiano dato rigore, il fatto di determinare che fosse dentro o fuori aria, aspetta al guardalinee, sì. E non certo uno che sta cadendo, quindi non può certo sapere di certo se è caduto dentro o fuori. No, quindi... certo. No, dipende da come uno cade. Se uno alza la gamba all'indietro apposta per cercare il contatto con l'avversario, come ha fatto Via Del Piero, è matematico che cade. Questo glielo metto per iscritto. Basta aver fatto qualche partita a pallone anche in gioventù. Il caso di ieri è assolutamente eclatante. Poi, per carità, se invece si vuol fare gli innocentisti ad ogni costo, allora va benissimo. Ripeto, in quel quarto d'ora circa che è passato tra quella strepitosa prodezza sul primo gol, in cui Del Piero era veramente in quel momento il simbolo di una Juventus ritrovata, simbolo a maggior ragione visto che aveva appena ritirato prima all'inizio della partita quella maglia con su scritto 445, che è il numero di presenza ufficiale con la maglia della Juve, e significava aver superato Gian Piero Boniperti, cioè il recordman di presenza, e insieme il simbolo vero e assoluto con la S maiuscola della storia della Juventus. Andando a recuperare quel pallone, strappandolo all'avversario con un tackle correttissimo, poi imbucandosi in area e dettando in pratica quel triangolo perfetto con Diego, Del Piero ha dato il meglio di sé. Dopo, rallentando la corsa, dopo aver visto con la coda dell'occhio che Papastathopoulos stava a sua volta rallentando per essere sicuro di non toccarlo, ha dato secondo me il peggio di sé. Giovanni da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno, senta Garanzini. Dica. Allora, io l'apprezzo per quello che lei dice a proposito di tutti i tifosi che si comportano male, insomma quelli pseudo tifosi. Sappiamo bene di cosa si parla perché intervengono anche in trasmissione, lei diciamo così le redarguisce in modo più corretto, nel senso che tutte queste recriminazioni su c'era il fallo, fuori gioco o rigore, alla fine insomma devono lasciare il tempo che trovano proprio e comunque accettare il verdetto del campo, giusto o no? Certo, Giovanni. Però mi sembra che nel caso, nella fattispecie di cui stiamo parlando, cioè di questo del rigore della partita di ieri tra Juventus e Genoa, giustamente bisogna dire che non era rigore, e mi fido di voi, anche se io non ho visto né partita né servizi, mi fido di voi e direi che Del Piero ha simulato, perché sicuramente insomma mi fido della sua opinione, Giovanni, no, però guardi. Voglio dire, la cosa che volevo sottolineare è che secondo me lei, Garanzini, in questo caso ha semplicemente forse con le parole accentuato un po' i diritti tra virgolette alla recriminazione dei genoani, dell'allenatore, in modo con cui ha presentato le due parole che ha rilasciato l'allenatore del Genoa. Cioè bisognerebbe anche poi alla fine dire ok, sì, e non era rigore, Del Piero ha simulato, però ragazzi bisogna accettare il verdetto del campo. Beh, perché una volta va bene, l'altra va male. Giovanni, mi scusi, non, l'intervento è già abbastanza lunghetto e non si è mica incatenato nessuno del Genoa, non ha mica presentato riserva scritta, non si sono mica rivolti al tribunale dell'ONU cioè, cosa hanno fatto? Hanno preso su e sono andati a casa, come sempre capita in queste occasioni, in queste circostanze. Se si sottolinea in modo particolare quella circostanza è perché queste cose te le aspetti dai mestieranti, non te le aspetti dai campioni, no? Ora, essendo la seconda volta in due settimane che Del Piero fa il mestierante, pur avendo ribadito un quarto d'ora prima di poter essere campione, questa è una notizia. Poi se vuole possiamo dilungarci sul concetto di giornalismo, di notizie eccetera eccetera, ma lì credo dopo qualche annetto di essere discretamente ferrato in materia. Allarghiamo il discorso, mettiamo la giornata storta di quest'arbitro, anzi mettiamo una giornata storta in generale degli arbitri in Italia, che curiosamente ha voluto fare un regalo alla rovescia al loro designatore Collina, che sabato aveva compiuto 50 anni e che probabilmente si aspettava dai suoi amministrati un regalo diverso. Ieri se ne sono viste di abbastanza tante, no? di valutazioni sbagliate o negative, e sono cose che possono accadere. Soprattutto, ripeto, tenendo conto che come sempre queste valutazioni vanno fatte in una frazione di secondo. Ce n'è una di una gravità rara che invece andava presa non in una frazione di secondo, ed è quando è cominciato il lancio di bombe carta e di tutto il resto allo stadio di Torino. Lì non è che occorra un riflesso particolare per stabilire che bisogna fermare la partita, perché questo lo si è detto, lo si continua a dire, lo si continua a ripetere in tutte le salse, ma vigliacco se c'è uno che un giorno sospende la partita. Forse l'ha fatto Rizzoli durante Roma-Lazio, ma il clima da bombardamento autentico che a un certo punto si è creato ieri all'Olimpico di Torino non comportava, ma esigeva, intimava la sospensione immediata della partita, perché sta succedendo qualcosa di molto più grave che sta andando ben al di là del calcio. Ora, se lei pensa che la scorsa settimana il Consiglio federale è riuscito a varare una norma antibestemmia, no? E dopo poi parleremo della sua grottesche modalità di applicazione, è riuscito a soffermarsi sul decreto antibestemmia e attualmente è a Nyon per presentare con il suo staff capitanato dal presidente Abete, da presentare la candidatura italiana agli europei del 2016, beh, insomma, io credo che i motivi di ilarità nel nostro paese purtroppo riguardino anche il mondo del calcio. Da Torino ha chiamato Giuliano, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io volevo soffermarmi brevemente su questo. Il ritorno di Roberto Bettica, che ahimè si è formato dirigenzialmente in un periodo piuttosto nebuloso, sembra coincidere con un atteggiamento arbitrale degli arbitri verso la Juventus, vedi Saccani, vedi Mazzoleni, eccetera, e un atteggiamento piuttosto favorevole, e addirittura se vediamo anche Rosetti, che sempre facevano parte dell'ante 2006, ante Calciopoli, si vede anche Rosetti di Torino. Io capisco la non uniformità tra due persone diverse, due arbitri diversi, ma lo stesso Rosetti a Bari dà un calcio di rigore e ammonizione per un fallo di mano che abbiamo visto com'era, e ieri non dà un calcio di rigore, è la stessa persona, ha capito? Questo... Sì, infatti quello è abbastanza singolare, mentre escluderei la prima parte del suo l'ipotesi Bettega, no? L'ipotesi Bettega condizionatore, questa mi sentirei di escluderla assolutamente. Primo, perché sono certo che oggi non c'è possibilità di condizionamento arbitrale. Secondo, perché anche nella vecchia Juventus Bettega faceva tutt'altro, e tutti ricordiamo a chi toccasse e come lo svolgesse il cosiddetto lavoro sporco, non certamente a Bettega. Torniamo in onda, in compagnia, è già in attesa da qualche minuto, mi spiace, e rimediamo subito Lorenzo da Milano. Buongiorno. Mi spiace non essere d'accordo con lei, anche perché nella maggior parte dei casi lo sono. Ma non è grave, Lorenzo. No, beh, certo, immagino. Volevo dirle solo questo, sto parlando naturalmente del rigore di Del Piero. A velocità normale sembra fuori gioco netto, che non ci sia il fuorigioco, cioè che ci sia il fuorigioco e che sia rigore. Poi, quando lo rivedono e stravedono mille volte alla moviola, non è fuori gioco e non è rigore. Però dire quello che dice lei, che praticamente dà per certo che Del Piero simuli, a me non sembra molto corretto, anche perché io qualche partita a calcio l'ho fatta. E anche un certo ex giocatore ieri sera, che non ha giocato nel Canicattì con tutto rispetto, diceva che Del Piero secondo lui non ha simulato. È una questione di valutazioni, Lorenzo, non è questione di maggioranze o minoranze o di chi la pensa di più in un modo o in un altro. Io non guardo mai la moviola, cerco sempre di valutare a velocità normale. A velocità normale quello non è un autosgambetto, perché non è vero, ma è un rallentamento impercettibile per trovare il contatto col difensore, che sta cercando per l'appunto di evitarlo, e chi è davanti se n'è accorto. E un giocatore di quell'esperienza, di quella classe, tra l'altro, in queste cose sente l'erba crescere, non solo Del Piero. Claudio da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno, sempre un piacere parlare con lei. Dica. Allora, due cose appunto riguardo Del Piero, devo ricordare a tutti i signori che sono a suo favore che la Juve sono tre giornate di fila che si becca due rigori inesistenti e un gol in fuorigioco clamoroso con Livorno. No, clamoroso no, non dica questo Claudio, perché il gol di Livorno nessuno ha visto fuorigioco, che salta fuori alla 40esima moviola, mi dicono. Io devo ancora accorgermi adesso che le grottaglie fossero in fuorigioco, quindi i fuorigiochi clamorosi sono diversi. Senta, vabbè. Scusi, non c'è stato su quel fuorigioco lì, non era clamoroso dal punto di vista dei centimetri, ma era clamoroso perché il guardaline, quando chiaramente che è in linea con l'ultimo difensore, si vedeva da quando partiva la palla che c'erano sempre uno o due giocatori bianco-neri, vabbè, di là della linea. Quindi allora è clamorosa, ragione lei, questa era la prima, la seconda? Ma è stato un incrocio, comunque al di là di questo è stato un errore. Ma quello che dà più fastidio è che Del Piero sul primo rigore di tre settimane fa si è buttato 5 minuti prima, si è buttato per terra in maniera clamorosa ed è stato redarguito dall'arbitro e non ammonito. Questo sì fu clamoroso, infatti Saccani prima gli disse non rifarlo più e poi lo premiò quando lo rifece, e questo è vero, ma se ne è già parlato tre settimane fa. C'è qualcosa di fresco? Un'altra cosa, due cose ancora poi veloci. Allora, non si deve vedere dove il giocatore cade, ma dove era il giocatore che gli ha fatto lo sgambetto, quello era clamorosamente fuori area. Sì. Anche qui su clamorosamente bisogna intendersi, perché in un'azione così dinamica non è semplicissima, secondo me non era facile beccare il fatto che De Piero fosse in posizione regolare, e invece il guardaline quella l'ha beccata, non ha beccato il punto esatto in cui è avvenuto il contatto fuori. La cosa più facile da prendere, secondo me, era la volontarietà o l'involontarietà, ma queste sono ovviamente opinioni. Antonio Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire una cosa, intanto io sono interista, però non credo che gli interisti si debbano lamentare se non ci hanno dato un rigore, perché una squadra come l'Inter, se voleva vincere la partita, poteva avere altre occasioni per procurarsi un gol. E secondo me, chiedo anche una sua conferma, se già contro il Parma e ieri sera contro il Napoli non abbiano rallentato pensando alla partita... Scusi la missione del Chelsea, ma volevo essere anche veloce e rapido. È stato bravissimo Antonio, sì, può essere. Io credo che comincino a avere quella partita in testa, e credo anche che sia un po' presto, perché così va in surmenage poi, sbagli completamente la vigilia se cominci a pensarci troppo per tempo, nel senso che l'Inter non gioca questa settimana, gioca la prossima, quindi se ha cominciato a pensarci a Parma sono due settimane prima. Poi è vero che la testa la comandi fino a un certo punto, ma se da questo dipendesse sarebbe un errore grave, non solo per le due partite in questione, ma soprattutto per la proiezione su quella di Coppa. È giusto quello che lei dice su Rosetti. Ho trovato per una volta, ma per una volta, non così infondata la critica di Mourinho quando dice: ma è strano però che un arbitro, lo stesso arbitro così severo sui falli di mani a Bari, sia invece stato così permissivo a Napoli. Questa trovo che sia un'osservazione che ci può stare, proprio perché la grande araba fenice della categoria arbitrale è l'uniformità, nel senso che è difficile trovare arbitri diversi che interpretino alla stessa maniera degli interventi analoghi. Se però si parla dello stesso arbitro a distanza di partite, beh, insomma, lo stesso arbitro dovrebbe essere un tantino più coerente. Io dico anche più severo sull'entrata a metà campo, perché ieri sera un paio di entratine, credo che tra Snyder una e Cambiasso l'altra, secondo me se ci scappava un cartellino rosso non sarebbe stato così esagerato. Ripeto, a scelta per uno dei due casi, magari non tutte e due, anche perché se punisci il primo poi il secondo probabilmente non c'è. Pasquale, provincia di Bologna, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Senta, io la chiamo, innanzitutto vorrei precisare che sono un tifoso del Napoli. Ma non è grave. No, anzi no, è bellissima, specialmente di questi tempi. Niente, no, volevo sottolineare il fatto di Mourinho per quanto riguarda, diciamo, il fatto che, diciamo, sulla sua valutazione della gara, diciamo. Io credo che in realtà il rigore c'era ed era giusto assegnarlo, no? Come noi abbiamo chiesto il rigore sul Genoa, così c'era il rigore praticamente a favore dell'Inter per il Mario. No, è molto più netto questo ed è molto meno involontario questo. Comunque, in ogni caso... Netto è più rigore di quello del Genoa. però poi dopo l'arbitro non l'ha data. Ma una cosa volevo sottolineare per quanto riguarda Mourinho, che quando poi è venuto a fare ovviamente la conferenza stampa, ha parlato di uomo piccolo piccolo, e questo credo che sia un'offesa incredibile, diciamo, no? Anche al nostro presidente, diciamo, no? A De Laurentiis, sì. Ma sì, sì, De Laurentiis, mm. Anche perché poi De Laurentiis aveva risposto: io non prenderei mai Mourinho, no? Convinto, sì. Ovviamente, perché lui si è innamorato di Mazzarri e quant'altro. Certo. Anche se Mourinho è un bravissimo allenatore, nessuno... però dare una Ferrari e farla correre è diciamo, un po' più facile di avere, diciamo, una Mercedes e far superare la Ferrari, no? Certo. Questo per fare un esempio, diciamo. Però il fatto che lui dice uomo piccolo piccolo, io credo che sia un'offesa inaccettabile per l'uomo De Laurentiis, al di là ovviamente, perché ovviamente è un, da quello che sembra, io credo che sia il miglior presidente che il Napoli Calcio abbia mai avuto, per Beh. Il momento parlo. Per il momento. Per il momento, Pasqua, sono offese che si scambiano simpaticamente tra di loro, lasciamo, io li lascerei scambiarsi queste affettuosità tra di loro senza, io ho sentito una dichiarazione molto più, molto qualitativamente molto peggiore ieri, è veramente avvilente per chi la pronuncia, è quello che ha detto Buffon alla fine per giustificare quei labiali, che se fosse già entrata in vigore la legge antibestemmia prenderebbe qualche giornata di squalifica, perché si era parlato di un intanto di un provvedimento immediato, nel senso che nessuno aveva mai detto che il provvedimento sarebbe scattato in differita, come invece adesso si è scoperto. Spero non perché è coinvolto il problema della nazionale, voglio sperare il portiere nazionale, voglio sperare almeno questo. Ma non c'è dubbio che il primo a essere pizzicato subito dopo questa rinnovata attenzione, anche da prova televisiva nei confronti dei bestemmiatori, sia stato, e in maniera clamorosa, Buffon. Qualcuno gliene ha chiesto conto alla fine della partita, segnalandogli che la diretta televisiva lo aveva purtroppo immortalato in questa prodezza verbale. Sentite il commento di Buffon. In famiglia ho uno zio che fa un po' il porcellino, e allora ogni tanto può capitare. Bravo. Io credo che non occorrano commenti, perché non si commentano le battute degli intellettuali. Gianluca da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dire, se in Italia c'è una legge che praticamente quando uno ha scontato la pena è ancora colpevole, come nel caso della Juve, perché ogni qualvolta capita qualche episodio, purtroppo capita, no? Subito si fa, diciamo, la caccia alle streghe, bette che è tornato, sempre le solite cose. E poi volevo parlare di quello di ieri, che io l'ho vista in diretta, la partita, mi sento una persona intellettualmente onesta, e le posso assicurare che io ho avuto la sensazione che il fallo fosse stato commesso in aria, che tanto è vero che lo stesso Papastatopoulos non ha protestato più di tanto. Poi si riguarda la Moviola, si riguarda, però comunque alla fine comunque prevale sempre questo sentimento popolare che la Juve ruba. Ma questa pena non viene mai scontata, secondo lei? Non so, volevo sapere questo qualcosa in mezzo. Non mi pare assolutamente. Mi pare che non ci sia. Mi pare che nel campionato di oggi non ci sia assolutamente quasi alcun pregiudizio, né in un senso né nell'altro, né nei confronti di qualcuno né nei confronti di altri. Mi sembra che tutti continuino a lamentarsi come ha sempre fatto, e anzi semmai di più, indiscriminatamente. Mi sembra che giustamente scatti, legittimamente scatti qualche, come dire, segnale di inquietudine, semplicemente di curiosità, quando accade qualche fatto abnorme che esce un pochino dal normale, come dire, c'è non c'è, errore veniale o errore non veniale, insomma ogni tanto si va oltre, e in quei casi scattano vecchie psicosi che, ripeto, secondo me non hanno alcun diritto di cittadinanza. Beh, sono ancora molti gli ascoltatori che anche oggi chiedono di intervenire. Se parliamo dell'equivoco sull'entrata in vigore di questa nuova norma antibestemmia, beh, che l'equivoco ci sia non c'è dubbio, perché ieri per esempio due calciatori trevigiani sono stati espulsi per bestemmia dall'arbitro. È una partita dilettanti tra il Codogné e il Gorghese, rimane il fatto che prima uno una squadra e poi un altro dell'altra, della squadra avversaria, sono stati espulsi per questo. Perché? Perché significa che evidentemente L'entrata in vigore di quella norma ha sensibilizzato anche gli arbitri ad applicare una norma del regolamento che esisteva già prima e che semplicemente non veniva più richiamata, applicata per l'appunto. Strano, ripeto, molto strano, che invece quando sembrava che questa norma fosse direttamente entrata in vigore subito dopo il pronunciamento del Consiglio federale, dopo abbia subito un misterioso rallentamento attuativo, ma davvero, davvero abbastanza misterioso. Guido ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, io volevo intervenire sul discorso della bestemmia di Buffon. Io l'ho vista prima mangiando, sto lavorando in giro, sono rimasto allibito perché non è una bestemmia che nasce, non so, da uno che gli ha fatto male, ti ha dato un colpo. Allora, è una bestemmia per autocaricarsi. No, non per autocaricarsi. È una bestemmia reiterata per l'errore commesso, perché lui ha appena preso un gol che è colpa sua. È di poca personalità una bestemmia così. Poi io volevo dire una cosa. Lei prima ha criticato il fatto che la Federcalcio stia cercando di imporre questa norma antibestemmia. Io ricordo ancora degli europei in cui giocava Vieri fuori forma, di una bestemmia che ha tirato lui con un gol sbagliato. Avevo miei figli in fianco che sono balzati sul divano a dire: ma hai visto papà cosa ha detto? Certo, cioè, ma questi si mettono la mano davanti per salutarsi o per non far vedere quello che devono, che vogliono dirsi in campo. E dopo invece escono con queste cose così. Secondo me è una roba veramente incivile. In parte sì, però anzi, nella sostanza è così. Poi è tutto un problema di arretta media, di uso di telecamere. Sto leggendo un'agenzia che è appena uscita che dice: l'uso della prova TV per punire i giocatori bestemmiano in campo rischia di fare del calcio una specie di Grande Fratello, dove chi ha il potere veramente e chi ha più telecamere decide cosa inquadrare e quando. È l'opinione di Simona Ercolani, ideatrice e regista del programma di Rai 3 Sfide, dedicata al mondo dello sport. La prova TV secondo me viene utilizzata un po' troppo, è un po' troppo a comodo, certe volte sì, c'è altre no, ha detto la regista. Così il calcio diventa Grande Fratello, che è la deriva, che è la vera deriva di cui il calcio è già preda da un bel po' di tempo, ed è per questo infatti che è scattata questo giro di vite voluto ad ogni costo dal presidente del CONI Petrucci e prontamente fatto proprio dalla FIGC e ratificato dal Consiglio federale. In realtà credo che con un po' di buon senso si potrebbero da una parte richiamare i giocatori a una maggiore educazione, e su questo non c'è alcun dubbio, dall'altra io credo chiedere anche ai registi televisivi di essere un po' meno Grandi Fratelli, ecco, no, nel senso che no, non è davvero il caso di immortalare e diffondere in primo piano quello che ha detto Buffon ieri. Sul fatto poi del suo commento a fine partita che abbiamo appena ascoltato, beh, lì scende un velo pietoso, perché lì non siamo più all'esclamazione al brutto vizio contratto, insomma, che noi italiani purtroppo abbiamo di una reazione vagale di quel genere, ma lì siamo a freddo e siamo veramente a un livello leggermente al di sotto del pavimento. Giorgio ha chiamato da Como, buongiorno. Sì, sono Grazini, buongiorno. Mica. Io telefono a proposito, intanto ascolto spesso la sua trasmissione e non sempre anch'io, come chi mi ha preceduto, un certo Lorenzo, un signor Lorenzo da Milano, a proposito di Del Piero. Comunque ha già espresso lui il mio pensiero, inutile che lo esprima anch'io. Mm-hmm. Volevo semplicemente intervenire sul rigore, sul clamore che stanno facendo i genuani, sul rigore concesso alla Juventus non c'era, d'accordo, però voglio anche esprimere, pensare alla partita di andata Genoa-Juventus, il gol annullato validissimo ad Aia Quinta. Non ho sentito il clamore che stanno facendo adesso sia dai genovani che da voi media. Se n'era invece parlato. Se vuol sapere il mio punto di vista, è perché quel gol, che era certamente valido, l'annullamento di un gol del genere comporta un errore, non so, da 5 in pagella, faccio per dire. Un rigore come quello di ieri comporta un meno 5 in pagella, secondo me, e quindi un filo di differenza io credo che ci sia. Poi siamo sempre, le ripeto, nel campo delle opinioni personali, perché questa è la cronaca. La storia invece, che mi stavo dimenticando anche oggi, è quella che ci ripassa Nicola Filippone a proposito del 15 febbraio. Sembra ieri. 15 febbraio 1970. L'Inter interrompe la marcia del Cagliari capolista battendolo per 1-0 a San Siro. Il gol partita lo realizza Roberto Boninsegna, alla prima stagione in nerazzurro dopo 3 anni trascorsi proprio a Cagliari. Il passo falso dei sardi a San Siro consente alla Juventus, vittoriosa a Vicenza, di portarsi a una sola lunghezza. Ma Riva e compagni si rimetteranno subito in carreggiata e non perderanno più fino alla fine del campionato, che chiuderanno con 4 punti di vantaggio sull'Inter e 7 sulla Juve. Belli questi episodi di campionati, molto tirati, molto, molto belli, ma soprattutto molto meno avvelenati di quelli che stiamo vivendo noi. Tancredi ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Io volevo un momento fare una riflessione sulla simulazione, pseudo simulazione. Prendiamo l'esempio ieri del Piero. Qualcuno può dire che Del Piero abbia simulato, poi dopo che c'era rigore non c'era rigore, ma queste qua secondo me sono vengono dopo come ragionamenti. Io dico anche che esiste all'interno del calcio una cultura e un codice di regolamento. Io parlo perché ho giocato tantissimi anni a calcio, tra noi calciatori, nel senso che ad esempio il difensore ieri, io sono juventino, quindi si figura, il difensore ieri con Del Piero avrebbe potuto far meglio affiancare Del Piero nella corsa e non andargli dietro, perché può succedere che il difensore, che l'attaccante o aspetti, come ha detto lei giustamente, o addirittura faccia, non è stato il caso ieri di Del Piero, l'autosgambetto. Certo. Poi altri casi in area, ad esempio di rigore, allora io facevo il difensore, se c'avevo un attaccante che era più alto, nel momento nessun calcio d'angolo, cosa facevo? Gli mettevo la scarpa mia sopra la sua per cercare di bloccare il tempo di salto. Ma queste sono tutte cose che fanno parte del calcio, del gioco del calcio, del nostro codice all'interno. Io sento che persone, facendo riferimento a questi esempi, parla di disonestà, come se stessimo parlando di cose incredibili, impossibili, delle sorti del mondo. È calcio. Il calcio è fatto di una cultura positiva, di gesti positivi, come possono essere appunto quelli che fece Di Canio in Inghilterra, sorprendendo là, ed è fatto anche di piccole furbizie. Piccole o grandi furbizie, ma si capisce, è verissimo, io su questo sono completamente d'accordo lei. Questo è calcio, e ogni tanto ti va bene, ogni tanto ti va male, e non c'è dubbio su questo. Riusciamo a chiudere velocissimamente con Roberto dall'Aquila, buongiorno. Buongiorno, praticamente ha quasi risposto lei, perché io premetto sono milanista, proposto la bestemmia di Buffon. Sì. Volevo sapere se le telecamere in quel momento sono proprio obbligate ad andare nella bocca di Buffon. Questa è la domanda vera, Roberto. Quando a un certo punto, quando si sta giocando nella foga del risultato, poi non dimentichiamo che la Juve viene da una situazione difficile. No, ma qualunque sia la situazione, facile o difficile, questa è la vera domanda da porsi. Io al posto del Consiglio federale mi sarei rivolto ai calciatori, ma anche e soprattutto ai registi. Grazie Roberto, ci saluti l'Aquila, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi con Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.